Guardi, io sto scrivendo in questi momenti un pezzo che si intitola Un martedì nero per il Servizio Sanitario Nazionale, la salute e la Repubblica Italiana. Questo è il messaggio che è il giudizio che do di questa vicenda. Purtroppo non è stato il primo e non sarà l'ultimo, perché è chiaro che quando il decreto arriverà alla Camera e sarà adottato, per quanto si dica che i soldi non ci sono, ed è totalmente vero, e buona parte delle materie delegate non saranno gestibili nella forma in cui esse vengono oggi promesse, perché non ci sono soldi, in realtà 8 materie non sono sottoposte al criterio dei LEP, dei livelli essenziali di prestazioni, quindi teoricamente già quest'anno possono essere devolute, e anche se non hanno i LEP e quindi non prevedono una esplicita monetizzazione, diciamo così, tutte queste materie sono ambiti nei quali si può sviluppare la svolta privatistica e la finanziarizzazione che insetano in questo processo. Basta pensare che tra le 8 materie c'è per esempio una grande parte delle materie che riguardano le banche, ma anche le professioni, la previdenza complementare, cioè tutta la parte assicurativa, il sistema tributario e via dicendo. Ecco. Quindi una forte privatizzazione nelle quali tutte le regioni, sia quelle autonomizzate che le altre, saranno coinvolte. Questo è quello che succederà. La zona differenziata è praticamente una bufala, perché l'elemento centrale è che il governo sta tagliando il Fondo Sanitario Nazionale e quindi nessuna regione potrà mai affrontare, anche se autonomizzata, i problemi di tutela delle fasce deboli e anche delle fasce medie. Di nuovo finanziarizzazione e privatizzazione della sanità in salsa regionale. Un dato più politico: voi più volte avete sottolineato come la regione Emilia-Romagna inizialmente appunto avesse richiesto l'autonomia differenziata, poi Bonaccini ci ha ripensato di fronte al DDL Calderoli, però non ha mai effettivamente ritirato la richiesta, è così? Allo stato attuale è così, purtroppo è sempre che lui faccia un doppio gioco: predica contro l'autonomia di Calderoli per imbonirsi quel 60% di opinione pubblica italiana che è contraria all'autonomia regionale differenziata, ma non fa nulla per ricevere il regalo che il decreto Calderoli fa agli autonomisti, alla Bonaccini dell'Emilia Romagna, poiché con l'articolo 11 il decreto Calderoli prevede che le regioni che hanno già avanzato richieste possono continuare a discuterne con il governo, quindi si inseriscono direttamente, recuperano tempo rispetto agli onerosi e macchinosi iter che sono stati previsti, ma che sono iter praticamente a basso tasso di democrazia, ecco, senza spazi per una vera discussione, insomma. Detto questo, noi ovviamente siamo contro ogni autonomia regionale differenziata, riteniamo che le classi sociali più povere, il lavoro e l'Italia stessa abbiano bisogno di recuperare una dimensione nazionale e all'attività legislativa che va riportata tutta dentro al Parlamento italiano, che non va depauperato, defraudato dell'attività legislativa che gli è propria, né verso le regioni con l'autonomia regionale differenziata e i cosiddetti governatori che verrebbero eletti direttamente dall'elettorato senza l'intermediazione di consigli regionali, né dalla premier forte, dal premierato forte, entrambe dimensioni di un federalismo che la Costituzione italiana non cita mai. Neanche nella pessima riforma del 2001 la Costituzione italiana parla di federalismo. Parlare di federalismo in Italia oggi significa andare contro la Costituzione, eversione della Costituzione. Come alcuni hanno detto, era più onesto Bossi quando parlava di secessione. Infatti ieri in aula la Lega ha esposto la bandiera col leone di San Marco. Sì. Per fortuna che nessun altro ha tirato fuori le bandiere delle altre regioni, perché avremmo avuto una plastica manifestazione, rappresentazione della balcanizzazione dell'Italia. È una cosa molto pericolosa, non c'è da ridere, perché proprio i Balcani ci hanno dimostrato che i focolai, diciamo, corporativo territoriali possono poi sfociare anche in scontri violenti, non solo in conflitti economici.